abbandonati a noi stessi. Questo è come siamo, bestemmiati maledetti. Questo è come siamo, schiacciati dalle regole del mondo in cui viviamo, sottomessi mai voodoo. Questo è come siamo, abbandonati a noi stessi. Questo è come siamo, bestemmiati e maledetti. Questo è come siamo, schiacciati dalle regole del mondo in cui viviamo, sottomessi mai voodoo. Questo è come siamo, c'è coraggio, questo guadagniamo a caro prezzo. Cicatrici una sull'altra, riportiamo con lo screzio dentro l'anima il ritorno da ogni scontro. Battaglia vinta o persa, in ogni caso scorno. Ci vuole coraggio quando attorno senti le presenze ostili, brividi sul collo come geli di respiri. Se vai troppo su di giri non lo reggi il film horror che ogni giorno vivi come fossi già morto. La carne in scatola e la gente dentro al borgo, preconfezionata nella gelatina mol, senza forza né coraggio, perché glielo hanno tolto per plagiarli a dovere, per averne il controllo. Noi voodoo fuori dal mondo, fuori di Gabu, perché mai e poi mai ci condizioneranno e mostriamo a loro danno. Forza e coraggio, perché diamo esempio ad altri che presto si uniranno e vorrebbero nasconderlo, ma è tardi. Sono passati gli anni, abbiamo andato giù gli affronti, i colpi più pesanti, i trucchi dei bastardi, le truffe ordite per passare avanti calpestandoci. Noi ci teniamo in vita con coraggio e forza, non tremiamo perché abbiamo la coerenza dalla nostra. È un carascio d'esperienza che sopra il ritmo porta a fare rime che sfondano le ossa. Abbandonati a noi stessi, questo è come siamo, bestemmiati maledetti. Questo è come siamo, schiacciati dalle regole del mondo in cui viviamo, sottomessi mai voodoo. Questo è come siamo, abbandonati a noi stessi. Questo è come siamo, bestemmiati e maledetti. Questo è come siamo, schiacciati dalle regole del mondo in cui viviamo, sottomessi mai voodoo. Questo è come siamo. Non sono sprecati tutti sti istanti passati. Siamo giganti incastrati tra strati stratificati. Siamo cascati nel fango, fumo cementificati. Siamo rinati da un fungo che ci ha già centuplicati. Forza e coraggio, di certo privati dai nostri stessi fatti. Certi discorsi sani sono degli stessi, mati gli stessi fatti, già spesso emarginati. Embarghi fatti e siamo appresso a sogni astratti. Ma siamo voodoo, questo è come siamo. Rimpalliamo tutta la merda che dalla società mangiamo. Colonizziamo su questa terra in cui viviamo. Noi vi portiamo il suono insano. Questa è la guerra al vuoto umano. Il clou a tutti quelli che vorrebbero cambiarci, provate a parci questa bocca che vi provoca gli squarci. Provi vergogna, perciò non vuoi incontrarci in più. Metti alla gogna il nostro modo di scontrarci. Tu non lo capisci che la società è degenere. Il denaro crea cenere, il divario è più celere, che l'orario di lavoro sta per cedere. Orde di servi, tu stai per perdere. Servi pure il tuo re e il tuo padrone. Perdi tutti i tuoi diritti se li vuole il tuo datore, il signore. Tutti uguali in questo viaggio, ma ciò solo a parole. Forza e coraggio ci distinguono, è solo il motore. Abbandonati a noi stessi, questo è come siamo, bestemmiati maledetti. Questo è come siamo, schiacciati dalle regole del mondo in cui viviamo, sottomessi mai voodoo. Questo è come siamo, abbandonati a noi stessi. Questo è come siamo, bestemmiati e maledetti. Questo è come siamo, schiacciati dalle regole del mondo in cui viviamo, sottomessi mai voodoo. Questo è come siamo.